Dovrai, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei mai il cazzo fra. Dovrai, dire a sta gente che non sente fra da piccia sul blunt. Mi vengo nei coli che bro di te, ma ok, non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai. Ti prenderò rose, che farai passire se tradire fare ce ne vuole. E tra le spine 2-3 lire di motivazione. Ma mica il tuo amore, ma mica il tuo cuore, del tuo cuore di ice. Se penso alle parole, per potermi esprimere non mi esprime, sembra un cantastorie. Quindi dire fino a questa fine che ci tiene a cuore, ma non so se dire no, oppure sì, oppure boh. Yeah, yeah, ma se vai su YouTube, quello parla di me. Che se parlo di ansia in blog, te non vuol dire sto male. Cose, professore, non ci ho mai detto non andavo a scuola. Eppure in new school sono dentro consumato suole. Per le suore che fa le escort trasformo il dolore in dolore e mi fa male lo stesso. Dovrai, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei mai un cazzo fra. Dovrai, dire a sta gente che non sente fra da piccia sto blunt. Mi vengo le coliche, bro di che, ma ok, non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai. I get it, I know you love to hate me. Moving on, on, on, on, on. I get it, I know you like to date me. But you're wrong, wrong, wrong, wrong. I left it for the money, fair enough. Sorry bitch, they don't really, really care enough. I'm sorry, wait till your numbers block. Stop, stop, stop, girl, you got dropped. You didn't believe me, nope. You didn't trust me, nope. Well, I can guarantee you, you can put my music on. I had some patience, yep. I found a cadence. I thought I'd never say it. Thank you all who did me wrong. Well, I'll be honest, I ain't that sympathetic. Got a problem about giving a shit. I'm apathetic, I'm a leader than the rest, and I know I'm hypothetic. Got no problem, make it a couple big hits. I wouldn't sweat it. Dovrai, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei mai un cazzo fra. Dovrai, dire a sta gente che non sente fra da piccia sto blunt. Mi vengo le coliche, bro di che, ma ok, non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai. Palsi di scumore come un ascensore. Dico sono spento da ste storie. Rombe un colore ma 20 mezzo secondo, brother. Ci faccio un quadro un po' malato, ce l'ho già in mente. Ok, è fare rapper, quanto varrebbe una tua canzone tipo le tette. Io un influencer, non andavo a scuola ma sono la new school. Quello vorrebbe, quello corre, quello corre me. Fa bene lo stress. Non fra, colonna mente veramente staccherando. Non fra, dimmi perché sempre te che non sei te. Mi hai con la tua faccia da sotto, tutto bene, non sei una cazzo fra. Dovrà, questa gente che non sente fra da che c'è sto fra. Mi vengo le coliche, pratiche, ok, non vale niente quindi se qualcuno.